con l'autore e attore Saverio La Ruina di Scena Verticale per parlare dei tre appuntamenti a Roma, al Teatro Biblioteca Quarticciolo con Dissonorata, L'aborto e Polvere, tre spettacoli dal 22 al 24 novembre. Saverio, ben trovato. Ciao, ben ritrovato. Tutto bene? Sì, tutto bene. Saverio, ci presenti questo appuntamento? Beh, allora, come parlavi tu, è una trilogia che possiamo definire in qualche modo trilogia al femminile, nel senso che ha un percorso all'interno della questione di genere, con due spettacoli dove interpreto una donna. E il terzo, Polvere, dove c'è una donna in scena, dove interpreto il partner. Posso dire che è effettivamente un percorso anche nel tempo. Potrei dire che Dissonorata, anche se veramente ci sono gli echi a tutt'oggi di quella storia, è una storia che ho immaginato potesse essere avvenuta intorno agli anni 60, chiaramente anche prima e anche dopo, e che parla poi di un delitto d'onore, che è il sottotitolo dello spettacolo, un delitto d'onore in Calabria, uno spettacolo anche di parecchi anni fa, anche devo dire uno spettacolo fortunato, e diciamo il secondo invece, L'aborto, potrebbe essere collocato ad inizio anni 70, quindi qualche anno dopo, e comunque prima che ci fosse la 194 legge che regolamenta l'aborto, anche se poi c'è un finale che in qualche modo nel tempo va oltre a dire anche come viene applicata appunto questa legge attraverso la storia che in finale vive la nipote di Vittoria, che è la protagonista di L'aborto. Il terzo spettacolo, Polvere, tra l'altro nasce. Non mi sarei aspettato neanche io di poi di realizzarlo, però molto spesso il pubblico femminile, che è stato un grande fiancheggiatore di quei due spettacoli di cui parlavo e di cui avevo paura anche ad interpretare il ruolo femminile, come a dire perché fai questa cosa al posto nostro, poi in realtà è stato apprezzato proprio perché appunto veniva affrontato da un uomo e non era necessariamente, come dire, detto dalla parte delle donne, però faceva un discorso appunto di vittime carnefice, interpretato da me, quindi da un attore, da un uomo. E Polvere, quindi, mi è stato in qualche modo spesso sollecitato come spettacolo, come campo di indagine, vale a dire uno spettacolo che a quel punto parlasse proprio della donna nell'oggi e quindi del rapporto uomo-donna nell'oggi e quindi il permanere di queste, quelli che sono modelli maschili nella testa di noi uomini in modo molto persistente, con tutti appunto la gravità che questo modello maschile ha ingenerato all'interno della nostra società. Insomma, i femminicidi in qualche modo ne sono la parte più evidente. Lo spettacolo in realtà parla del prima, cioè di quello che è un rapporto malato in qualche modo tra uomo e donna, come si insinua e come in qualche modo è come la polvere che non si vede, però in realtà si sta costruendo e si sta addensando all'interno della testa della donna, all'interno di quel rapporto. Saverio, che percorso hanno fatto in questi anni e che riscontri ci sono stati? Ma gli spettacoli hanno avuto un forte interesse, per fortuna. Dissonorata e L'aborto sono stati gli spettacoli anche che di grande empatia, hanno creato una fortissima empatia nel pubblico sia femminile che maschile. Devo dire, sono spettacoli anche che sono stati molto rappresentati in Italia, ma sono stati rappresentati anche molto all'estero, e tra l'altro sono stati anche tradotti all'estero in Francia e in spagnolo in Venezuela, con più messe in scena. Polvere, diciamo, rispetto a quei due, diciamo, lavora di meno sull'empatia, perché inizialmente volevo costruire una storia empatica, poi ho rinunciato perché mi sembrava che al di là dell'impatto che potesse avere per me lo spettacolo, forse potesse raccontare poco delle dinamiche che invece sono importanti da mettere in evidenza, ed è quello che ho cercato di fare con Polvere. e quindi non crea empatia, crea anzi a volte delle reazioni molto forti nel pubblico, addirittura sono arrivato anche al punto che delle donne giustamente nella dinamica insostenibile che si crea anche in quel rapporto fatto di violenza psicologica, le donne conoscono molto bene con certi meccanismi, dalla sala sono partiti spesso delle urla contro il protagonista, che sarei io, maschile, cioè dicendo proprio alla donna sparagli, no, dalla platea in modo molto netto. Quindi è uno spettacolo che, come dire, racconta la dinamica senza sconti. Sì. Raccontiamo anche brevemente la traiettoria di Scena Verticale. Ma la traiettoria della compagnia parte dalla Stanza della Memoria, che è uno spettacolo del 96, dove si va anche a capire quali sono le radici, che non sono soltanto le radici della Calabria, del Nebbione, ma di tutta Italia, che proviene dal mondo contadino, e anche quelle che sono tutte le contraddizioni che sono create poi con l'avvento diciamo, dei tempi moderni, che spesso hanno anche distrutto certi luoghi, tanti di quelli assolutamente da salvaguardare. E poi c'è stata una trilogia calabro-siciliana, che è stato un modo anche di misurare questi grandi temi classici, misurarsi con questi grandi temi classici dentro la realtà del Sud, per capirne anche le piccolezze anche diciamo, dei personaggi, tanto grandi quelli siciliani, tanti piccoli e veramente antieroi quelli appunto attuali. Per tutte le informazioni ci lasci i vostri riferimenti web. Allora, su www.scenaverticale.it c'è tutto il calendario e comunque andando sul sito del Quartpicciolo forse trovate qualche indicazione o anche sul nostro sito stesso sugli spettacoli di quanto io non sia riuscito magari a sintetizzare al meglio guardando anche la strada davanti a me per non prendere delle cantonate durante il percorso. Bene, ricordiamo la trilogia a Roma, al Teatro Biblioteca Quarticciolo con Saverio La Ruina, con gli spettacoli Dissonorata, L'aborto e Polvere dal 22 al 24 novembre. Saverio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, a te buon lavoro, ai radioascoltatori, insomma, buone serate e sperando di rincontrarci. Ciao. Ciao.